La comunione, unione con Cristo. Nella Santa Comunione, Cristo, vero Dio e vero uomo, si offre a noi come cibo spirituale, per unirci di più a sé e perfezionare in noi la prima conformazione con Lui, ricevuta nel battesimo. Tutta l'efficacia del mistero dell'incarnazione, la vita, la morte e la glorificazione del Signore, ci viene consegnata in questo istante. Possiamo riceverla con maggiore o minore perfezione, a seconda della qualità delle nostre disposizioni personali. Nella consacrazione, le parole del Signore, per la potenza dello Spirito Santo, operano il mirabile cambiamento sostanziale del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo. Il fatto di accoglierlo nella comunione ci trasforma in Cristo, secondo le parole di Gesù stesso. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Giovanni 6:56-57. Non cessiamo di stupirci di fronte ai prodigi che la presenza reale di Cristo e la grazia del sacramento sono capaci di operare nella nostra anima. In ogni messa, la salvezza operata sul Golgota ridiventa pienamente attuale. Si rinnova così la vittoria dell'amore sull'odio, la vittoria dell'amore sulla morte. Soltanto questa intima esplosione del bene che vince il male può suscitare poi la catena di trasformazioni che a poco cambieranno il mondo. Tutti gli altri cambiamenti rimangono superficiali e non salvano. Per questo parliamo di redenzione. Quello che dal più intimo era necessario è avvenuto e noi possiamo entrare in questo dinamismo. Cerchiamo di avvicinarci ogni giorno all'altare con lo stupore e la gratitudine di colei che è madre di Dio e madre nostra, ricorrendo alla sua intercessione per vivere in profondità il sacrificio di Cristo. Pensiamo, per esempio, a come partecipiamo al dolore, dolore tutto d'amore, patito dal Redentore per la nostra salvezza e per la nostra santità. Il fatto di ricevere il corpo di Cristo nella comunione ci inserisce in un dinamismo di rinnovamento integrale che non cesserà fino alla venuta gloriosa di Cristo alla fine dei tempi. Questa prima fondamentale trasformazione della violenza in amore, della morte in vita, trascina poi con sé le altre trasformazioni. Pane e vino diventano il suo corpo e sangue. A questo punto però la trasformazione non deve fermarsi, anzi è qui che deve cominciare appieno. Il corpo e il sangue di Cristo sono dati a noi affinché noi stessi veniamo trasformati a nostra volta. Noi stessi dobbiamo diventare corpo di Cristo, consanguinei di Lui. Tutti mangiamo l'unico pane, ma questo significa che tra di noi diventiamo una cosa sola. Approfittiamo dei momenti della comunione per chiedere fiduciosamente a Gesù che imprima nel nostro cuore gli stessi sentimenti che riempiono il suo. Ci vedremo spinti a corrispondere a ciò che è più importante, amare, e sapremo diffondere questa carità fra gli uomini per mezzo di una vita di servizio. Vi ho dato infatti l'esempio. Giovanni 13:15. Insiste Gesù parlando con i discepoli dopo aver lavato loro i piedi la sera della cena. Rimuoviamo dal cuore l'orgoglio, l'ambizione, i desideri di dominio e regneranno in noi ben fondate nel sacrificio personale la pace e la gioia. Purificarci dalle nostre miserie. Una volta ricevuto il dono divino della Santa Comunione, ciascuno si mette personalmente davanti al Signore, con i propri difetti e limiti, ma anche con il profondo desiderio di accoglierlo, purificandosi veramente da tutti gli errori. Le nostre miserie non contano, per quanto esse siano frequenti come il tic-tac di un orologio, se le rettifichiamo mediante la contrizione, che è dolore d'amore, se formuliamo il proposito di riprendere la lotta interiore, se ricorriamo alla confessione sacramentale. Non dimentichiamo la necessità di purificarci presentandoci davanti al tribunale della penitenza. Andiamoci puntualmente, pieni di gratitudine. Le accoglienze riservate a personaggi autorevoli della Terra sono caratterizzate da un grande apparato di luci, musica e abiti eleganti. Per accogliere Cristo nella nostra anima, come dobbiamo prepararci? Abbiamo mai pensato come ci comporteremmo se si potesse ricevere la comunione una sola volta nella vita? Quando ero bambino, ricordava San José María, la pratica della comunione frequente non era ancora molto estesa. Ricordo come ci si preparava alla comunione, con grande cura per disporsi bene nell'anima e nel corpo. Il miglior vestito, i capelli ben pettinati, il corpo anche materialmente pulito e magari con un po' di profumo. Erano delicatezze proprie di innamorati, di anime forti e delicate, che sanno contraccambiare amore con amore. È quanto ci viene ricordato nel rito della purificazione dei vasi sacri dopo la comunione. Il sacerdote dice sottovoce: il sacramento ricevuto con la bocca sia accolto con purezza nel nostro spirito, o Signore, e il dono a noi fatto nel tempo ci sia rimedio per la vita eterna. Il fondatore dell'Opus Dei, che di amore per Dio davvero se ne intendeva, ogni tanto apriva la sua anima agli altri per insegnare loro come stare con Gesù nella Santa Eucaristia, in particolare una volta ricevuta la comunione. Nel corso di una di queste confidenze diceva: gli dico che non so come sia potuto venire in questo letamaio che è il mio cuore. Ancora una volta ha voluto umiliarsi. Che grande umiliazione fu per lui farsi carne in quanto servo. Ma venire da me. E si reca anche nei vostri cuori. Viene come medico, come padre, come maestro, come nutrimento, come forza, come compagno, come amico. Trattatelo come preferite voi, ma trattatemelo bene. Amatelo davvero, guardate che l'amore va contraccambiato con amore. Le opere sono amore, non i bei ragionamenti. È duro udire questo senza rumore di parole, in fondo al cuore. È duro e dolce. Ascoltate anche voi questo rimprovero. Le opere sono amore. Il Signore si aspetta fedeltà. Aiutiamo gli altri a essere fedeli, percorrendo tutti quanti cammini di amore e di bene, aiutando tutti a collaborare alla redenzione. Preghiamo gli uni per gli altri, affinché in questo mistero tanto grande non ci avviciniamo mai a Cristo in maniera poco delicata. San Paolo lo ricorda a tutti quando avverte i Corinzi: ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. 1 Corinzi 11, 26-29. Dobbiamo desiderare che tutti lo ricevano degnamente. Sorge spontaneo dalla nostra anima un atto di riparazione sincera per le imperfezioni o persino per le profanazioni con le quali talvolta lo si riceve? Diciamo al Signore che vogliamo fare nostra la reazione di quel sacerdote che pianse amaramente nell'apprendere che una persona si era accostata in peccato mortale a ricevere Cristo. Purtroppo non si tratta di situazioni immaginarie, come segnala Benedetto XVI nella sua esortazione apostolica, facendo eco a preoccupazioni espresse dai padri sinodali. A questo proposito, scrive il Papa, vorrei richiamare l'attenzione ad un problema pastorale in cui frequentemente accade di imbattersi nel nostro tempo. Mi riferisco al fatto che in alcune circostanze, come ad esempio nelle sante messe celebrate in occasione di matrimoni, funerali o eventi analoghi, sono presenti alla celebrazione, oltre ai fedeli praticanti, anche altri che magari da anni non si accostano all'altare, o forse si trovano in una situazione di vita che non permette l'accesso ai sacramenti. Altre volte capita che siano presenti persone di altre confessioni cristiane o addirittura di altre religioni. Circostanze simili si verificano anche in chiese che sono meta di visitatori, soprattutto nelle grandi città d'arte. Si comprende la necessità che si trovino allora modi brevi ed incisivi per richiamare tutti al senso della comunione sacramentale e alle condizioni per la sua ricezione. Laddove vi siano situazioni in cui non sia possibile garantire la doverosa chiarezza sul significato dell'Eucaristia, si deve valutare l'opportunità di sostituire la celebrazione eucaristica con una celebrazione della parola di Dio. Segnaliamo ad altre persone questa preoccupazione del Papa, con delicatezza ma allo stesso tempo con chiarezza, in modo tale che nessuno, per ignoranza o per mancanza di formazione, si accosti senza le dovute disposizioni alla Santa Eucaristia. Inoltre, amiamo il Signore e offriamo atti di riparazione per tutti quanti non lo amano o non riparano, senza considerarci per questo migliori o superiori agli altri. Dopo la comunione. Tra le raccomandazioni della Chiesa per il tempo che segue la comunione c'è quella di rimanere alcuni istanti in silenzio, in ringraziamento a Dio per averci donato suo Figlio come cibo dell'anima. È il momento degli affetti, dell'amore e della contrizione. È il momento di pregare per la Chiesa, per il Papa, per la famiglia e per tante altre persone e intenzioni concrete. Che migliore occasione di questa, mentre perdura in noi la presenza reale di Cristo, per manifestargli con piena fiducia le nostre necessità, quelle della Chiesa e quelle delle persone che amiamo? Viene qui davvero a proposito una considerazione che ripeteva il servo di Dio, Monsignor Alvaro del Portiglio, quando ricordava il tramonto nei luoghi pianeggianti, dove si osserva il sole che cala lentamente all'orizzonte. Quando già sembra toccare il terreno, è come un incendio. Tutto il cielo si tinge di rosso e il sole di mille colori. Non è altro che un effetto ottico, perché il sole non tocca davvero la terra. Invece, quando riceviamo il Signore nell'Eucaristia, che è molto più del sole, è il sole dei soli, e tocca il nostro corpo e la nostra anima, che meraviglia ci succede dentro. Come si infiammerà la nostra anima al contatto con Cristo? Come la trasformerà la grazia? Se un bel tramonto è meraviglioso, che cosa sarà mai questo che non è un tramonto, un calar del sole, ma tutto il contrario? È il sole che viene nella nostra anima e ci tocca, ci infiamma. Se pensassimo di più a questo grande miracolo, ci riempiremmo di stupore e di gratitudine. Il Signore viene nella comunione per trasformarci. Aumenta in noi la fede, la speranza, la carità e tutte le altre virtù. Le infonde nella nostra anima, le vivifica. Così la Santa Messa diventa davvero il centro e la radice della nostra vita interiore. La stessa liturgia ci prepara a mostrarci grati verso Dio mediante l'orazione dopo la comunione. In essa la Chiesa esprime in diversi modi un'unica aspirazione: ringraziare per il cibo spirituale ricevuto e chiedere che sia per noi un rimedio salutare. Così, per esempio, chiediamo al Padre: fa che raggiungiamo anche noi la pienezza del tuo amore, per passare da questa mensa eucaristica che ci sostiene nel pellegrinaggio terreno al festoso banchetto del cielo.